Una situazione che dura da moltissimi anni. Noi al Centro Astalli, che è il servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia, sono 20 anni almeno che contiamo i morti di migrazione che cercano di arrivare in Europa. Sono persone che scappano da guerre, conflitti, da situazioni di povertà estrema e che, non avendo alternative legali per arrivare in Europa, si affidano ai trafficanti. Affidarsi ai trafficanti vuol dire mettere in serio pericolo la propria vita, mettere in conto di morire, perché partono barche fatiscenti che potrebbero portare un certo numero di persone e ne portano 10 volte tanto e le abbandonano in mezzo al mare. In mare non c'è nessuno a salvarle tranne poche navi di ONG quando hanno il permesso di farlo, e questo è inaccettabile e contrario alle convenzioni internazionali. Ecco, proprio lei ha citato le ONG, gli ostacoli che hanno ricevuto anche dalle autorità italiane negli ultimi anni possono avere contribuito a non risolvere il problema? È un problema che non viene risolto da veramente molto tempo e da troppi governi, questo va detto. Ci sono delle soluzioni che si possono mettere in atto, come i canali umanitari, e noi adesso chiediamo l'evacuazione immediata dalla Libia, perché è inaccettabile la condizione di vita che viene riservata ai migranti in quel paese in guerra, che non è un paese sicuro. Le ONG fanno del loro meglio, si sono attivate nel momento in cui le operazioni di soccorso in mare, prima italiane come Mare Nostrum e poi europee, sono venute meno. E lasciar morire senza far nulla le persone in mare dovrebbe essere inaccettabile per tutti, non solo per le organizzazioni umanitarie. Quindi, insomma, voi chiedete da un lato di risolvere la questione libica evacuando i migranti e dall'altro di ripristinare la ricerca e soccorso in mare. Noi chiediamo per il caso specifico queste due cose, esatto. In Libia, chi arriva dalla Libia, i fortunati che riescono a sopravvivere ed arrivare in Italia, ci raccontano, noi le incontriamo al Centro Astalli, le persone che ci raccontano di torture, violenze e di cui portano anche i segni. Infatti uno dei nostri lavori è proprio di certificarle, oltre che di prenderle in carico e curarle, le torture che le persone subiscono in Libia. Quindi la Libia va evacuata dall'Europa, sono numeri gestibili, si parla di poche migliaia di persone che potrebbero essere ripartite in tutti i paesi europei. È necessario attivare prima di tutto canali umanitari dai paesi in cui non ci sono le condizioni democratiche e il rispetto dei diritti umani e che costringono per questo le persone a migrare. Quindi le principali aree di crisi dovrebbero avere dei canali umanitari per le persone che sono costrette a scappare. Pensiamo a situazioni come la Siria, l'Iraq o molti altri contesti internazionali in questo momento, il Congo, di cui si è parlato tanto in questi giorni. Quindi canali umanitari, evacuazioni dalle situazioni gravissime come la Libia o come i Balcani o come le isole greche come Lesbo e Moria, dove vivono da un tempo indeterminato moltissimi migranti in attesa di sapere quale sarà il loro destino. L'Europa deve fare qualcosa, non sta facendo nulla, rimane ferma, è molto concentrata ad investire sulla sicurezza dei propri confini. In realtà noi chiediamo che sia un'Europa solidale, che rispetti i diritti e le convenzioni internazionali e in base a questi salvi la vita ai migranti. Ecco, proprio su questo sarebbe necessario un cambiamento delle politiche europee, no? Che sono improntate in questi anni, in questi decenni, più al tentativo di fermare i flussi piuttosto che all'accoglienza. Esatto, sono sprecate e si sprecano moltissime energie e risorse per cercare di bloccare i flussi, ma i flussi in questi anni abbiamo avuto ampie dimostrazioni che non si bloccano, perché se si scappa dalla guerra, se si cerca di mettere in salvo se stessi e la propria famiglia e di garantire loro un futuro migliore, non è una frontiera, non è un blocco a fermare la migrazione. Ci sono 80 milioni di rifugiati nel mondo, solo una piccolissima percentuale riguarda l'Europa, che può essere gestita, garantendo la sicurezza dei cittadini, ma garantendo anche il rispetto dei diritti umani. Investire in sicurezza e soprattutto fare del migrante il capro espiatorio di tutti i mali della società europea e dei governi nazionali, purtroppo è quello che abbiamo visto in questi anni, ma non ha risolto nessuno dei problemi, né quello dei migranti né quello dei cittadini, possiamo dire.